Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, torniamo sul tema della sicurezza. Questa sera in particolare parliamo di contrasto al terrorismo con un progetto per la sicurezza nei luoghi di grande afflusso di gente ideato dall'Enea. Il progetto si chiama Radex e chiama in causa un laser molto speciale e rientra in un programma più ampio, un programma della NATO, Science for Peace and Security, il programma di ricerca che punta a sviluppare tecnologie per la lotta appunto al terrorismo. La nostra Chiara Albicocco ne ha parlato con Roberto Chirico, che è il ricercatore di Enea che ha realizzato Radex. Sentiamo. Nel laboratorio Enea di Frascati abbiamo da poco sviluppato uno strumento che riesce a individuare tracce di esplosivi che potrebbero essere presenti, per esempio, su vestiti o uno zaino di potenziali attentatori. Lo strumento si chiama Radex ed è un acronimo che sta per Raman Detection of Explosives. Ecco, questo... sì, qui spendiamo qualche parola in più. Raman, che cos'è? In pratica Radex si basa sulla spettroscopia Raman e quindi sullo scattering inelastico di un impulso laser inviato dallo strumento. Allora, scattering inelastico, dobbiamo spiegarlo. Sì, la reazione viene inviata dallo strumento a una certa energia. Quella che torna indietro ha un'energia che può essere maggiore o minore di quella del laser. Quindi questo segnale Raman che torna indietro è caratteristico a informazioni sulle vibrazioni delle molecole di una sostanza. Allora, vediamo se abbiamo capito bene. Noi lanciamo un laggio laser, quindi onde luminose, verso una persona, quindi un soggetto, a una certa distanza, ci viene restituito ovviamente un raggio di ritorno che ci fornisce un'informazione su quali sono le sostanze che sono state colpite da questo raggio. Certo. E quello che ci torna indietro potrebbe essere, ad esempio, l'individuazione di che cosa? Di sostanze pericolose, di esplosivi? Materiali energetici che potrebbero essere stati utilizzati per preparare una bomba dal potenziale attentatore e quindi anche esplosivi. La parte innovativa di questo progetto è sì certamente lo strumento, la tecnologia, ma il fatto che si possa utilizzare in luoghi pubblici, ad esempio metropolitane, stazioni, dicevamo prima, con grande afflusso di pubblico e soprattutto dove i controlli sono inconsapevoli, diciamo così, quindi non gli aeroporti dove sappiamo che la gente insomma viene controllata. Sì, questa è proprio una cosa importante da sottolineare, perché strumenti simili già esistono, sono presenti, però a differenza di altri strumenti simili che utilizzano un laser, Radex utilizza una radiazione laser che è sicura, che ha un'energia sicura sia per la pelle che per gli occhi delle persone, quindi è il primo strumento, almeno per quanto sappiamo noi, che può essere utilizzato in luoghi pubblici, quali potrebbero essere metropolitane, stazioni e anche aeroporti. Il sistema Radex è stato testato recentemente, il sistema Radex è tutto Standex, il progetto Standex ha previsto lo sviluppo di più sensori. Ecco, lei intende il progetto Standex, è il nome del progetto della NATO, NATO, quell'ambito di cui parlavamo prima, sì. Sì, il progetto Standex in pratica ha previsto lo sviluppo di più sensori in modo da formare un sistema di allarme molto più complesso e Radex è uno dei sensori che fa parte di questo sistema. Tutto il sistema è stato già testato in una metropolitana di Parigi, una parte è stata interdetta al passaggio di persone, sono state fatte delle simulazioni abbastanza reali e i risultati ottenuti sono stati abbastanza ottimi, veramente sono molto soddisfacenti. E il sistema Radex, a distanza di strumenti simili, è il primo che può essere utilizzato in luoghi pubblici. E l'Enea ha ottenuto, il nostro laboratorio di diagnostica e metrologia, ha ottenuto questo risultato solo dopo 2 anni di ricerca. Sì, quindi diciamo che come tecnologia è top, non ci sono altri strumenti simili, per questo appunto i risultati che avete ottenuto sono promettenti, si pensa che tutto sommato tutto questo lavoro che si è fatto in questi 2 anni arrivi poi a una realizzazione, ad un utilizzo reale. E si può pensare di utilizzare questo strumento anche per altri materiali, ad esempio abbiamo detto gli esplosivi, sicuramente importantissimi da individuare, ma anche ad esempio stupefacenti, chi porta con sé droga o chi ne fa utilizzo? Sì, anche in questo caso Radex potrebbe essere utilizzato per individuare tracce di droghe. E per quanto riguarda l'industrializzazione, Radex è ancora un prototipo, ma comunque i risultati che abbiamo ottenuto sono molto promettenti e quindi il pensare ad una sua industrializzazione ed un suo futuro utilizzo non è fatta scienza. No, poi nell'ambito appunto di progetti così importanti finanziati dalla NATO si pensa che lo studio sia assolutamente finalizzato alla realizzazione. Sì, la NATO si aspetta di vedere alla fine, dopo un grosso investimento di soldi, vuole vedere il prodotto. Per oggi è tutto, appuntamento domani, buona serata.